Infatti, tra l'altro, posso chiedo a Marco. Posso... No! Grazie. È quello che proprio volevo. Potevo, posso non fare una cosa? È lì che è lì che sta la stronzata di fare le cose a priori, insomma. Sì, che uno può cambiare sempre. No, dimmi. Ecco, se posso mettere adesso un pezzo io. Sì. Appunto, io parlo di questo. Per vedere un po' così, parlarne. Fare sti quizzoni su pezzi musicali. Davvero? Io ci vado matto sui quiz. Senti il brano e dimmi tutti quelli che ci hanno suonato. A me invece è sempre diciamo una musica ormai del secolo scorso e composta da un compositore. Senti, mi sembra con quella musica caldo. Mi fa venire pensare al caldo comunque. Non so se è una perché immagino. Ha un movimento rodatorio. Sì, è un bel sì. Perché c'è movimento e quindi produce sì. calore. Se provassi a cambiare prospettiva, chi? Su questo pezzo, no? Non mi frega chi è, cos'è. A me mi sembra, per esempio, due amanti che stanno parlando. Io è un pezzo, lo considero uno dei capolavori della musica. C'è qualcuno che mi sa dire che cos'è questo senso di nuovo preso dentro me. C'è qualcuno che sa rispondermi perché c'è falsetto anche qua, la tristezza non sa il mio nome eppure chiama me Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti. Che merda. Ma questa è l'unica canzone decente che ha fatto, capitano. E come stai vivendo tu i tuoi pensieri? Perché non è possibile. Tu non puoi andare avanti così. Però ecco, è curioso perché nella musica c'è sempre questo sembra quasi che tranquillizzi la gente cercare di capire chi è. Quando stai in che anni? Sì, è vero, inquadrare. Eppure è proprio difficile, anche io stesso faccio fatica perché, vabbè, questa playlist l'ho fatta io, quindi so che roba è. Però c'è sempre il primo sforzo di cercare di collocarsi, di mettersi nella casella. Non è che la incaselliamo solo per non avere paure, no? Le usiamo proprio perché sono le possiamo usare al momento giusto proprio perché sono incasellate, no? Cioè sappiamo già cosa aspettarci da quella roba lì. Fili d'oro. Devi scappare. Devo andare, scusate. Ciao Simo. Ciao, Benino, mi dispiace di fare un po' diciamo di fare un po'. Cosa fai? Di essere un po' brusca nell'andare via, ma devo andare. No, devi andare. Senti, Simo. Aspetta, quello sotto le bene. Cosa dovevamo fare? Beh, siamo. Non so. Ciao Simo. No, niente. Grazie. Loro vanno. Loro sabato vanno a. Dove? Ah, Calitri. A Calitri. Io no. Ah, ok. Ma forse non lo so. Io no. Volevo interrompere, però vabbè. Ma no, ma che... Tanto qua è tutto un lavoro di montaggio. Sì. Sì, anzi, non so, tutto quello che abbiamo detto non usiamo niente perché invece Marcolino poi fa tutto a casa sua. Sì, esatto. Allora, grazie a tutti di essere qui, a te. Grazie ai miei amici e grazie, sono sicuro che Rosy è qui da queste parti, e lei che non ha più bisogno del tempo e dello spazio, però qui è con noi e noi siamo qui per fare un po' di musica, per leggere i suoi testi. Suoniamo. L'altra sera ci relazionavamo a una persona morta, ma abbiamo festeggiato la sua nascita. Certo, non abbiamo festeggiato la sua, o meglio, non ci siamo relazionati, abbiamo cercato di non relazionarci a questa persona e come generalmente ci si relaziona a un morto, a una persona morta. La stessa operazione è stata fatta con Mozart. Questo discorso di esecuzione improvvisazione comincia a sapere un po' di vecchio. Di vecchio? Sì, nel senso che lo sappiamo, non lo trovo più molto interessante, perché secondo me, io che ho avuto esperienza di composizione, anche il compositore improvvisa, solo che la sua improvvisazione viene fissata su carta. Io non ho parlato del compositore e dell'improvvisatore, ho parlato dell'esecutore dell'improvvisatore. La composizione, nel nostro contesto, è quell'operazione che si svolge dentro di filtro tra ciò che entra e ciò che esce. Quindi noi eseguiamo quello che succede dentro, semplicemente. Al di là quindi di quello che... di quello che hai scelto nella vita mano a mano che andavi avanti nella tua vita, che ti è piaciuto e quindi che è diventato il tuo bagaglio, poi dopo tu vai avanti, no, come persona cresci, vai avanti, per cui certo che continuano a fare parte del tuo bagaglio culturale tante cose che hai bazzicato, ma mano a mano scegli cose diverse. Certo. Allora, se non credo che il gesto della composizione collettiva estemporanea permetta alle persone che lo frequentano di vivere questa scelta costante, no? Questa scelta in quel momento di continuare a scegliere a prescindere da quello che hai scelto in passato, e a scegliere in quel momento, quindi, e fra l'altro appunto in maniera estemporanea, quindi non ragionando troppo, no? Ma lasciandoti ragionare dal momento. Perché comunque il desiderio è quello di fare bella musica, poi soprattutto. Cioè, almeno, a parte le cose, è curativa la musica, insomma, per me è anche importante fare bella musica. L'intelligenza c'è sempre, c'è ascolto. Esatto. No, in realtà la musica si scrive da sé se ti lasci andare. Perché ci sono tutte le geometrie. Le lasciati andare, poi era anche la poesia. È vero. Lasciati andare, lasciati vivere, lasciati morire. Lasciati morire. Sì. Che l'ascolto in verità è sapersi inserire in un discorso. Mm. Volevo che noi provassimo a essere come delle pozze d'acqua in alta montagna, no? Dove non passa bestiame da un po', quindi tutte belle limpide con qualche cosina, però in queste pozze cadono dentro dei sassi e vediamo che cosa succede. Bello questo. È bello perché è abbastanza... No, ma avete detto che non si deve dire bello, l'avete detto in due. Avete perso tutti e due. Esatto, rimaniamo io bello. Adesso noi vediamo chi lo dice prima. Ma sulla considerazione, non sulla musica. Sì, sì. Ma io ho pensato sulla musica invece. Pensavo... Io sono fuori. Ciao ragazzi. Ciao Marco. Vado a farmi un'ape. Un'ape? Un'ape 50. Esatto. Vado a fare i ribaltoni. Esatto.